Questa è la storia di Lilli e il vagabondo. Se vuoi, puoi leggere questo libro assieme a me. Quando sentirai suonare un campanellino, così, dovrai voltare pagina. Ed ora cominciamo. Per Natale, Tesoro ricevette da suo marito un regalo davvero speciale. Quando aprì la scatola avvolta in carta colorata, ne saltò fuori una splendida cagnolina. Oh, Gianni, cara, ma che amore! La chiamerò Lilli. Lilli era molto felice nella casa di Gianni Caro e Tesoro. Ogni pomeriggio giocava nel parco con Tesoro e la sera correva incontro a Gianni Caro che tornava dal lavoro. Un giorno d'estate Gianni arrivò a casa con una sorpresa per Lilli. Ti starà pennello. Adesso sì che sei una vera signorina. Vedrai come resteranno Fido e Whisky. Lilli trotterellò tutta fiera dai cani della casa vicina. Ciao. Non nota niente di diverso? Ehi, piccola, salve! Rispose con sussiego il terrier scozzese. No, Lilli, un bel collare nuovo! Fido, l'anziano bracco, aggiunse. Mamma mia, come passa il tempo! Pace! Verso la fine dell'estate, Lilli notò un cambiamento in Gianni e Tesoro. Cessarono le corse verso casa con Gianni Caro e anche le passeggiate pomeridiane con Tesoro, che ora restava a casa a lavorare a mano. La povera Lilli sedeva tutta sola in giardino e si chiedeva il perché dello strano comportamento dei suoi padroni. La risposta alle domande di Lilli venne qualche mese più tardi. Tutta la casa era in grande agitazione. Gianni Caro telefonò felice a sua zia Sara. Sì, zia Sara, è un maschietto. Sì, è un maschietto. Oh, che bellezza il maschio. Lilli salì silenziosamente al piano di sopra e con cautela guardò dentro la cucina. Era il piccolo umano più carino che avesse mai visto. Ora capì perché Gianni Caro e Tesoro si comportavano in modo tanto strano. Lilli corse fuori per raccontare a Whisky e Fido del bellissimo bambino. Mentre Lilli parlava, un cane randagio senza collare né medaglietta entrò nel giardino e si avvicinò lentamente a Lilli. Sì, un delizioso fagottino. Di guai. Sgraffiano, pizzicano, tirano le orecchie. Ah, ma quello sarebbe niente. Portano lo scompiglio in casa, distruttori di focolari. Whisky aveva sentito parlare di questo intruso. Lo chiamavano il vagabondo e riusciva sempre a sfuggire alla calacchia cane. A Whisky il vagabondo non piaceva. Fuori, fuori, via! Un giorno Gianni Caro e Tesoro partirono per il fine settimana e zia Sara venne ad occuparsi del bambino e con grande sgomento di Lilli portò con sé i suoi due gatti siamesi. I gatti si rivelarono subito delle bestie. Uno prese di mira la gabbia del canarino e l'altro cercò di trasformare in spuntino il pesce rosso. Tu lo vedi in quella panna, un pesciolino? Sì. L'hanno messo sotto vetro, poverino. Ora noi lo ripeliamo, detti addio. Ci giochiamo a testa e coda. Tu ed io? Lilli li rincorse e riuscì a sventare i loro piani, ma intanto i gatti avevano già messo a soqquadro tutto il salotto. Zia Sara arrivò di corsa. Oh, benedetto il cielo! I miei tesori, i miei vicetti adorati! I due terribili gatti si finsero feriti. Zia Sara li abbracciò premurosa. Quell'orribile bestiaccia! Aggredire i miei poveri angioletti innocenti! Zia Sara non perse un istante. Afferrò Lilli con decisione e si precipitò nel vicino negozio di animali. Voglio una museruola, una bella forte. Ah, sì, il negoziante legò una pesante museruola al muso di Lilli. Era così stretta che Lilli non riusciva quasi ad aprire la bocca. Spaventata, Lilli si divincolò dalle braccia di zia Sara e con un balzo corse fuori dal negozio. Cercando di sfuggire alla terribile museruola, imboccò una strada, poi un'altra. Ma ben presto si perse e finì in un quartiere malfamato della città. Tre grossi cani la videro e cominciarono ad inseguirla, abbaiando e mostrando i denti aguzzi, finché Lilli fu intrappolata in un vicolo cieco. Ringhiando, i cani si avvicinavano sempre di più a Lilli, quando un altro cane accorse in suo aiuto. Era il vagabondo. Da solo si batté contro i tre cani feroci e li costrinse a fuggire dolorato. Poi si rivolse a Lily. Ehi, bimba, che diavolo ci fai qui in periferia? Credevo che tu... Poi vide la museruola. Poverina, dovremmo toglierti questo arnese. Vieni. Il vagabondo portò Lily allo zoo. Vicino ad uno stagno trovarono un castoro che cercava di spingere in acqua un pesante tronco. Mi scusi, amico, questo pezzo... Quello che le ci vuole è un tiratronchi. E per una fortunata coincidenza vede innanzi a sé, indossato dalla seducente piccola Lily, il nuovo brevettato migliorato sempre pronto e infallibile. In men che non si dica, il castoro tagliò i legacci e Lily fu libera dall'odiata museruola. A quanto pare, il vagabondo era conosciuto e ben voluto ovunque andassero. Ogni giorno della settimana il vagabondo aveva un posto diverso per mangiare. Arrivarono davanti ad un ristorante italiano. Ehi, Tony! Ma certo, è il posto indicato per un'occasione specialissima. Tony aveva pronto un piatto di ossi, ma quando vide che il vagabondo aveva portato una compagna, servì loro una cena squisita a base di spaghetti col ragù. Poi Tony prese la sua fisarmonica e cantò una bellissima canzone d'amore, mentre Lily e il vagabondo cenavano al lume di candela. Lily si stupiva della vita spensierata del vagabondo, così diversa dalla sua. Dopo la cenetta romantica, Lily e il vagabondo passeggiarono nel parco fino a una collinetta da dove si vedeva tutta la città. Guarda, laggiù c'è un bel pezzo di mondo senza siepi intorno, dove due cani possono trovare emozioni ed avventure. Sembrerebbe allettante. Allora? Ma chi baderebbe al pupo? Hai vinto. Vieni, ti accompagno a casa. Mentre accompagnava Lily verso casa, il vagabondo vide alcune galline che dormivano in un cortile. Hai mai dato la caccia alle galline? Ci mancherebbe altro. Oh, allora non hai mai vissuto. Ma non sta bene. Lo so, per questo è divertente. Ah, vieni piccola, vivi finché ne hai il tempo. Il vagabondo si precipitò dentro il cortile abbaiando furiosamente e le galline cominciarono a svolazzare qua e là starnazzando finché non uscì di corsa il proprietario con il fucile. Che cos'è? Il segnale per tagliare la corda. Lily si sforzava di seguire il vagabondo che correva dietro agli angoli e scavalcava gli steccati, ma ben presto si perse di nuovo. Improvvisamente, la calappia cani balzò sulla povera Lily e la portò via, al canile municipale. Il vagabondo non si accorse di niente e quando andò in cerca di Lily, ormai era lontana. Lily non si era mai sentita così spaventata e umiliata in vita sua. Il canile era un luogo tetro, pieno di cani tristi e malandati, che fissarono con invidia la sua medaglietta. Le dissero che quella medaglietta era il suo biglietto per uscire di lì e che tutti loro avrebbero voluto averne una. Presto arrivò zia Sara per riportare Lily a casa, ma come punizione per essere fuggita la legò alla cuccia con una catena. La povera Lily si sentiva sola e triste. In quel momento il vagabondo entrò trotterellando nel giardino. Oh bimba! Oh. Ah, ciao ragazzi! Su, andiamo bimba! Non è stata colpa mia! Credevo che tu mi seguissi a ruota, davvero! Quando ho sentito che eri finita al canile... Oh, non mi parlare di quell'orribile posto. Ero così imbarazzata e spaventata. Ah, coraggio, su. Chi farebbe del male a una cosetta delicata come te? Addio! E portati via questo! Mentre il vagabondo si allontanava a testa bassa, Lily vide un grosso, orribile topo che entrava dalla finestra nella stanza del bambino. Tirando con tutte le sue forze la catena, Lily chiese disperatamente aiuto. Che succede, bimba? Un topo! Dove? Di sopra, nella stanza del pupo. Il vagabondo corse in casa, salì le scale e corse nella stanza del bambino. Il topo si stava lentamente avvicinando alla coda. Il vagabondo balzò su di lui e lo uccise. Il rumore della lotta svegliò zia Sara, che corse nella stanza del bambino. Ah, bestiacce malvagie! Via, indietro, subito, indietro! Zia Sara non aveva visto il topo. Spinse il vagabondo in un ripostiglio e chiuse a chiave la porta. Ora, al canile comunale! Lo chiamo immediatamente! Whisky e Fido guardavano la calappiacani che rinchiudeva il vagabondo nel carro. Mi sono accorto che era un poco di buono dal primo momento che l'ho visto. Sì, non lo avrei mai creduto capace di una cosa simile. Proprio in quel momento Gianni Caro e Tesoro tornarono a casa. Con uno strattone Lilli ruppe la catena e corse da Gianni Caro abbaiando disperatamente. Sta cercando di dirci qualcosa. Cosa c'è, Lilli? Lilli si lanciò su per le scale ed entrò nella stanza del bambino per mostrare a Gianni Caro la verità. Tesoro, zia Sara, venite qui. Cosa c'è, Gianni Caro? Ah, un topo! Un topo. Allora capirono che il vagabondo era innocente. Ma dovevano fare in fretta perché lo stavano portando al canile per ucciderlo. Quando Whisky sentì queste parole, si vergognò. L'abbiamo calunniato. Ha torto. Vieni, dobbiamo fermare quel carro. Ma come? Se non sappiamo da che parte andare. I due cani corsero dietro al carro della calappiacani abbaiando più non posso. I cavalli spaventati si impennarono. Il carro si rovesciò e lo sportello si aprì. Il vagabondo era libero. Gianni Caro e Tesoro furono tanto grati al vagabondo che gli comprarono un collare con la medaglietta. Ora anche lui faceva parte della famiglia. E il Natale seguente, Lilli e il vagabondo festeggiarono con una famiglia tutta loro. Quattro adorabili concioli. Così finisce la nostra storia. E se volete ascoltarla di nuovo, basterà che giriate la cassetta.